Grazie, grazie ancora. Siamo felicissimi di essere qui. E vogliamo condividere qualcosa della parola con voi. E voglio partire da questo. Penso che sia capitato a tutti di aver fatto qualcosa, di aver raggiunto un obiettivo, magari chi va all'università di aver passato un esame, insomma aver raggiunto un traguardo. E poi si avvicina a te qualcuno e ti dice, lo sapevo che ce l'avresti fatta, io ho pregato per te. E tu rimani un po' così, perché da una parte dici, caspita che bello, c'è qualcuno che ha pregato per me, c'è qualcuno che mi ha pensato. Però dall'altra parte, dentro di te nasce anche un pensiero. Sì, però ci ho anche messo il mio impegno, non è che solo tu hai pregato, ho fatto la mia parte. A volte sembra quasi un complimento, ma a volte un po' anche un disprezzo. È come per dire, se non avessi pregato per te, chissà se ce l'avresti fatta tu. E quindi rimani con questa cosa un po' dentro e ti viene da dire a Dio, Signore, facciamo una cosa, per una volta prova a non darmi nessun aiuto, nessun compromesso. Voglio provare a fare qualcosa da solo, da sola, senza il tuo aiuto e mostrare agli altri che comunque io sono capace di fare qualcosa di buono. È vero che quella persona ha pregato per me, ma ci sono anch'io, c'è anche il mio impegno. E quindi la prima domanda che vogliamo farci è, ma noi siamo buoni a fare qualcosa? Siamo capaci di fare qualcosa? A volte leggendo certi passi della Bibbia si ha la sensazione che siamo sempre inadatti. C'è sempre qualcosa che non va nella nostra vita perché tutto funzioni bene, perché io riesco a raggiungere quell'obiettivo, a fare quella cosa, perché magari mi manca qualcosa, perché magari ho sbagliato in un'area, perché magari ho detto la parola sbagliata nel momento giusto, e quindi ci sentiamo un po' inadatti. Oppure a volte quando tu dici di saper fare qualcosa, gli altri pensano che sei un po' orgoglioso, che stai un po' esagerando quando dici di saper fare qualcosa. Stai esagerando, stai calmo, fly down, giusto? Vola basso. Però Gesù, Dio Padre, non la pensano così di noi. Noi siamo i suoi figli, noi siamo le sue creature e Dio non ha questo pensiero nei nostri confronti. A volte noi separiamo un po' Dio e noi quando arriva questo pensiero. Ho pregato per te, per questo ce l'hai fatta. E noi ci separiamo un pochino da Dio. Dio che fa qualcosa e noi che facciamo qualcosa. Ma in realtà non è così. Noi e Dio siamo una squadra. Dio ha bisogno di noi per fare delle cose sulla terra. E noi abbiamo bisogno di Dio per fare delle cose qui sulla terra. È un lavoro di squadra. Non c'è una separazione e soprattutto non c'è una competizione. Ma noi siamo insieme, stiamo lavorando in squadra per fare qualcosa di buono su questa terra, per fare qualcosa di buono qui, adesso, su questa terra. Ma Dio ha bisogno di te, Dio ha bisogno di me, ha bisogno delle nostre capacità, ha bisogno di quello che tu sei, ha bisogno di quello che noi siamo. Il messaggio cristiano è certamente che senza di lui non possiamo fare nulla. Se noi leggiamo, noi siamo creatori di qualcosa di buono, perché siamo figli del creatore e abbiamo la sua natura, le sue abilità, le sue capacità dentro di noi. E infatti noi siamo stati salvati, e sapete, non siamo stati salvati solo dall'inferno, dalla morte eterna, dalla malattia, dalla povertà. Noi siamo stati salvati anche da quel senso di inutilità. Sapete, le persone, una delle domande che si fanno più spesso è: ma perché sono qui su questa terra? Quando noi siamo nati di nuovo, Gesù ha risposto a questa domanda. C'è un motivo per cui noi siamo qui su questa terra. Gesù è la risposta. E la risposta è perché Gesù ha preparato delle opere In precedenza le ha preparate, non adesso perché sei arrivato adesso e doveva inventarsi qualcosa, ma in precedenza lui ha preparato delle opere per te, per me, per noi, insieme. Ha preparato delle opere che noi dobbiamo compiere insieme. E quindi Gesù ci ha salvato anche da questo senso di inutilità. Noi siamo qui per un motivo. Noi sappiamo perché siamo qui. Noi sappiamo che abbiamo un compito. Noi sappiamo che abbiamo una missione. Noi siamo stati creati e siamo stati salvati per dilettarci nel compiere buone opere, quello che Lui ha preparato per noi. E Lui crede che tu sei capace di fare quelle buone opere. È vero, c'è qualcuno che prega per noi, ma ti devi sempre ricordare che anche tu hai quelle capacità. Perché sono dentro di te, perché Dio le ha messe in te, perché Dio ti ha salvato e ti ha chiamato per quelle buone opere. Creati per delle buone opere, creati per delle buone opere. Dillo al tuo vicino, tu sei creato per delle buone opere. Alleluia, tu sei creato per delle buone opere. E ora lascio la parola a mio marito che continua su questo. Ma non dimenticate mai, tu sei creato per delle buone opere, hai delle capacità per fare queste buone opere. Alleluia, alleluia. Sì, sapete, quando noi siamo arrivati in chiesa, tutti noi, quindi anche voi, uno dei primi messaggi che è stato insegnato, a proposito, mi ero preparato per venire con la camicia così, ma dopo 2 settimane in Puglia mi ha detto mia moglie che la pancia non mi permetteva più di essere alla moda, quindi tengo la camicia normalmente. Questo lo puoi capire solo se c'eri alla conferenza la domenica. Quando siamo nati di nuovo, ovviamente ci è stato insegnato il messaggio principale che noi siamo salvati per grazia, non per opere. Non dobbiamo fare nulla per essere salvati. E lo abbiamo capito bene. Però, dopo un po', tutti noi, proprio per quello che Pastore Michi ha detto, siamo stati creati, nel nostro DNA c'è il desiderio, il bisogno di realizzare qualcosa. È come dire, non mi puoi dire di non fare nulla, io ho bisogno di fare qualcosa. La mia soddisfazione, la mia realizzazione la trovo nel fare qualcosa. Ho capito che non devo fare nulla per essere salvato, ma visto che sono stato salvato, fatemi fare qualcosa. Dillo a qualcuno vicino a te, fammi fare qualcosa, devo fare qualcosa. Tu digli, vieni a casa mia che c'è un sacco di cose da fare. Perché ci perdiamo questo? Perché non è soltanto il fatto che noi siamo stati creati così, è che è ciò che ci fa stare bene, è sano avere qualcosa da fare, essere orgogliosi di qualcosa che si è realizzato, che si è fatto. Chi ha allestito questa sala ora è felice, vede questa sala ed è contento di qualcosa che ha realizzato. E non è che è lì a fustigarsi e dire no, ma io non sono salvato per opere, questo non è una che cos'è, questo è orgoglio. No, siamo felici che l'hai fatto, è bello. Anzi, credo che prima della fine di questa giornata dovresti andare da queste persone che hanno realizzato tutto questo e dirgli bene, oh, hai fatto un bel lavoro. È bello quello che hai fatto. No, il Signore ti darà la ricompensa. Ma la ricompensa arriva anche tramite te che vai a dire grazie, bello, è bello quello che hai fatto. Poi tu dici, ma a me non piace. Vabbè, ma a me piace, vai a dirgli che è bello lo stesso. Si possono dire bugie in questo caso. A volte finisce la predicazione, vado a mia moglie e dico com'è andata? E le dico sempre, puoi mentire spudoratamente, non devi dire la verità. Poi l'importante è che mi dici che è stato bellissimo, è una predicazione straordinaria. Alleluia! C'è un versetto importante che è Filippesi 2, versetto 12, dice «Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito». Questo versetto si collega proprio ci spiega chiaramente quello che stiamo dicendo. Noi siamo stati salvati e Paolo dice: come mi avete sempre ubbidito, quindi un qualcosa di pratico, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente. Poi dice: compite la vostra salvezza, cioè realizzate pienamente la vostra salvezza. La salvezza è perdono dei peccati, quindi libertà dal peso del peccato, del passato, di tutto ciò che ci vuole bloccare, dal nostro voler vivere senza Dio, tutto quello che ognuno di noi ha fatto prima di conoscere Gesù. Però poi c'è un passo avanti, quindi compite, lavorate, tirate fuori, proprio fate fiorire la vostra salvezza. E qui c'è da lavorare, ma da lavorare tanto, ma da divertirsi. Perché il bello del cristianesimo è sì essere salvati, ma poi il bello è fare le cose, è entrare nelle cose del Padre, è godere di quello che Lui ha preparato per noi, è scoprire che posso fare qualcosa di bello, è scoprire che posso dilettarmi ogni giorno nel realizzare qualcosa ed essere orgoglioso di quello che ho fatto. Questo è stupendo, è bellissimo. Dite che è bello, sennò non vado avanti. Ci rimango male. È bellissimo il fatto di sapere che la mia vita d'ora in poi è questo, giorno per giorno dire: guaglio, che è bello, si può dire qua, io nella mia chiesa non mi capisco. Eravamo a Ruvo, siamo andati al fruttivendolo che ci ha spiegato una nuova ricetta, vedete che il tema è sempre quello, di una cosa che non avevo mai mangiato. E mi piace quell'espressione perché poi alla fine dice: e fai così, e fai così, e fai così, e che ti mangi? E l'abbiamo fatto, infatti, e che ti mangi? Cioè, quando tu agisci in quello che il Padre ti ha preparato, e che ti mangi? Cioè, la tua vita diventa soddisfacente. Credo che nella Chiesa, se stai vivendo da credente un periodo in cui sei un po' demoralizzato, depresso, o ti senti inutile, è proprio perché forse stai perdendo questo aspetto qui, forse c'è qualcosa di nuovo nel quale il Padre ti vuole invitare, perché sei creato per fare cose. Quando Dio Padre ha dovuto scegliere in quale famiglia far nascere suo figlio, non l'ha fatto nascere in una casa di pastori, di sacerdoti, di religiosi, ma in casa di un falegname. Perché? Perché voleva che suo figlio fin da piccolo imparasse, vedesse, so che già lo sapeva, che c'è una diatriba dottrinale, Gesù lo sapeva, vabbè, comunque Gesù è cresciuto in un ambiente dove si prendeva un pezzo di legno che non sembrava nulla e lo si trasformava in qualcosa. Nel piacere di lavorare con le proprie mani qualcosa e dargli una forma e dire: questo l'ho fatto io. Wow, grazie del vostro entusiasmo. È stato veramente, mi è arrivata una botta di gioia di fare qualcosa. Fare qualcosa ed essere felici. Guardate che non è soltanto, può essere una, veramente anche nelle piccole cose, perché ora i social un po' ci ingannano, no? Perché uno guarda i social e vedi queste persone che magari grandi pastori che fanno grandissime cose in giro per il mondo, oppure artisti, ma è bello che invece riguarda proprio la vita quotidiana, fare bene i propri doveri, i propri compiti, in casa, come moglie, come marito, come figli, come studenti, come lavoratori, come membri di chiesa. Sei stato creato per entrare in qualcosa, per fare qualcosa. Ognuno nella chiesa locale dovrebbe proprio andare dal pastore e implorarlo: fammi fare qualcosa di pratico. Però attenzione, lui poi è libero di dirti qualunque cosa, quindi fate attenzione, pensateci bene. Io lo dico sempre in chiesa: voi dovreste proprio implorare i pastori, dire: fammi fare qualcosa, e i pastori sono liberi di chiederti qualunque cosa. Ma è bello mettere mano all'aratro, è bello sentirsi utili, proprio ti fa del bene. Guardate, qui dice che il Dio mette in noi, opera in noi il volere e l'operare. Qui ci sono due ingredienti che devono proprio lavorare insieme. Dio mette in voi, in me, il desiderio di qualcosa, l'attenzione per un bisogno. Dio semina dentro i nostri cuori, proprio qui lo dice chiaramente, il volere. Però noi molte volte non gli diamo retta a queste indicazioni che lo Spirito Santo molto delicatamente mette dentro di noi. Noi invece dovremmo prenderci un po' sul serio, nel tempo di preghiera, nel tempo di adorazione, mentre anche viviamo la nostra giornata, fare attenzione, perché la parola di Dio dice, e lo credo che è così, che Dio mette nel nostro cuore dei desideri, apre i nostri occhi su alcuni bisogni, e noi non gli prestiamo attenzione, invece proprio lì, se ti agganci, allora dopo la parola di Dio dice che oltre al volere mette l'operare. L'operare cosa vuol dire? Che ti darà delle occasioni per poter mettere in pratica. Ti darà delle occasioni, delle opportunità, ti darà le risorse, ti darà degli aiuti, ti darà più grande la visione, più grande sarà ciò che Dio metterà intorno a te. Ma tutto nasce da questa attenzione, da questa fede, da questa fiducia nell'iniziare a seguire il desiderio che Dio mette nel tuo cuore, a iniziare a pregarci e iniziare ad agire anche nelle piccole cose. Perché sentirsi utili, sentirsi usati da parte di Dio è bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. E questa è la vita cristiana. Questo vuol dire essere cristiani, sentirsi amati. So benissimo che sono salvato per grazia, ma la bellezza del cristianesimo è servire, è ubbidire, è entrare nelle cose pratiche, perché io sono un uomo, noi siamo uomini e donne e viviamo in questo mondo, e questo mondo ci è stato affidato, e voglio dare una forma a questo mondo, voglio dare il mio contributo, ed è bellissimo sapere che c'è spazio anche per me. Alleluia. Chiesa, è bellissimo lavorare, è bellissimo operare. Cos'è una cosa drammatica, no? Il fatto di quando uno perde lavoro o rimane disoccupato, il fatto che ti senti privato di un tuo diritto, di fare qualcosa. Nel regno di Dio non c'è disoccupazione, nel regno di Dio c'è spazio per tutti, c'è lavoro da svolgere, c'è divertimento, c'è il sentirsi soddisfatti. Alleluia, vorrei saltarvi in testa e dirvelo. Alleluia. E poi dice questa parola bellissima. Dice, perché Dio è colui, prima dice, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Parole che ci fanno un po' paura, ma invece ci sta dicendo, ehi, timore, tremore, attenzione a non perderti i desideri, i consigli, le ispirazioni, le opportunità, le occasioni che Dio ha preparato per te. Perché sono proprio lì per rendere la tua vita gustosa. Gustosa. Poiché Dio è colui che opera in voi, il volere e l'operare, per il suo beneplacito. So che tutti voi avete usato questa parola stamattina, beneplacito. E quindi non c'è bisogno di spiegarla. Caro, la colazione è pronta per il tuo beneplacito, vieni. Ma cosa vuol dire beneplacito? Beneplacito vuol dire per il suo disegno, lui ha creato questa armonia, questo spartito meraviglioso, lui ha creato questo film, questa opera straordinaria, lui ha creato il mondo, lui ha creato ogni cosa, dice, per il suo piacere, per il suo piacere. Sapete che c'è un altro un versetto, non so se l'abbiamo pronto, ma ve lo leggo io, in Neemia 8:10, non mi ricordo se ve l'ho indicato, è un versetto famoso quando dice andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci, questo è il motto delle nostre vacanze, okay. E quindi ho detto andiamo in Puglia. E dice mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro. Perché questo giorno è consacrato al nostro Signore, non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. La gioia del Signore è la vostra forza. Possiamo interpretarlo in tanti modi questo versetto, principalmente due. Prendere gioire noi nel Signore è la nostra forza. Però c'è un altro aspetto importante, che è questo. Quando tu fai qualcosa per il quale Dio gioisce, Dio si compiace, c'è una forza, una potenza che scaturisce dal suo trono che è straordinaria. Voglio dirvelo anche così. Noi è un paio d'anni che io e mia moglie abbiamo iniziato a fare un corso di piscina. Non siamo noi gli istruttori, cioè noi andiamo a imparare a nuotare. Mia moglie è molto più brava di me, però va bene. Una delle cose importanti della piscina è questa, ma di qualunque cosa, quando tu inizi qualcosa di nuovo, È il fatto che ci metti un po', prima di tutto capisci, ritorni a comprendere quanto è difficile imparare qualcosa di nuovo. Poi c'è quel momento in cui l'istruttore o l'istruttrice, ne abbiamo questa ragazza che ci sta insegnando, e ti dice bravo, bravo, è così che devi fare. Quando ti dice bravo, cioè tu ti senti wow. Già pensi, le prossime Olimpiadi quando sono? Ce la farò. So che è una cosa prettamente maschile questo, ma non è solo così. Cioè è bello quando qualcuno ci dice bravo, stai imparando. Ti dà un'energia che è straordinaria. Quando un padre, soprattutto il papà, una delle cose che mi manca di mio papà, che è andato col Signore qualche anno fa, è proprio quel dialogo in cui lui ti diceva, mostrava il suo orgoglio verso quello che stavi facendo. Mi dava un'energia. Papà che ti dice bravo, genitori, fate attenzione a questo, papà o mamma, ma soprattutto il papà che ti dice bravo per quello che sei, ti dà un'energia straordinaria. Pensa a quando è Dio Padre che ti dice bravo. È qualcosa di straordinario. Quando Gesù è stato battezzato, c'è stata questa voce dal cielo e il Padre che dice questo è mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, stava proprio esprimendo la sua gioia per il figlio e lo Spirito Santo è sceso. Sai che ogni volta che il Padre gioisce per qualcosa, lo Spirito Santo si muove e qualcosa di potente accade, ti rivitalizza. Quando Gesù è morto, sapete, c'è stata una potenza tale perché il Padre si è compiaciuto nella morte del Figlio che la morte ha dovuto fare un passo indietro. Il Padre si è compiaciuto in ciò che il Figlio non solo ha pensato o ha creduto, ma per ciò che il figlio ha fatto. E c'è stata un'esplosione di gioia tale che ha prodotto la resurrezione del figlio. Quando tu fai le cose per le quali il padre ti ha chiamato e ubbidisci e fai le cose per come a lui piace, quella stessa potenza si muove nella tua vita. Quella è la potenza della resurrezione. Alleluia, alleluia. La potenza della resurrezione non la afferri stando soltanto sui libri a studiare, quella è una cosa importante, non la afferri soltanto quando ascolti una predicazione, quella è una cosa importante. La potenza della resurrezione la afferri quando inizi a camminare nelle cose che il Padre ti ha chiamato a svolgere, alleluia, con grazia, con ubbidienza, con umiltà, ma nel fare le cose, perché il cristianesimo è fare qualcosa di pratico. Alleluia. C'è un versetto che amo tantissimo ed è quello che abbiamo preparato per concludere in Matteo capitolo 25 nella parabola dei talenti. Qui Gesù parla di questa parabola, non voglio entrare in tutta la parabola, ma c'è questa frase importantissima e Gesù sta parlando di questo, proiettandoci e mostrandoci quello che avverrà quando noi andremo in cielo e incontreremo il Signore. Il suo padrone gli disse: va bene, un'altra traduzione dice bene, bene, servo buono e fedele, bene, bene non è riferito a lui, bene è riferito a quello che aveva fatto. Io vivo per quel momento in cui incontrerò Gesù e amo, desidero che lui possa esprimere con forza questa frase sulla mia vita, bene. Perché lui sta guardando a tutto ciò a cui stai mettendo mano. Lui vede tutta la fatica che c'è nella tua vita, nelle cose quotidiane, nella vita in casa, nel come stai allevando i tuoi figli, nel come stai prendendo cura della tua casa, di come i mariti provvedono ai bisogni della propria famiglia. Dio vede tutte queste cose. Quelle sono, anche quella è opera che Dio ti sta chiamando a fare. E Dio è pronto, Gesù è pronto per dirti bene, servo buono e fedele. Vedete, il buono e fedele è riferito al servo, ma bene è riferito a quello che tu fai. Io sono felice che Dio mi ha chiamato a fare qualcosa. A fare qualcosa. Quando Paolo scrive alla lettera a Tito, è piena di questa parola, per le buone opere. buone opere, cose di cui essere felici. E guardate, a me piace molto perché dice: bene, buono servo, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia. Entra nella gioia. Quella frase dichiarata sulla nostra vita ci strapperà definitivamente dalla morte. Quella frase ci farà entrare nell'eternità, dove godremo completamente, infinitamente, della gioia di vivere la sua presenza e di fare le cose che il Padre ha preparato per noi. Alleluia. Vorrei, prima di concludere, poi voglio aggiungere una piccola cosa, ma vorrei che in questo momento potessimo sperimentare quello che abbiamo detto. Vorrei che potessimo alzarci tra poco e andare da qualcuno. Mentre parlavo, sicuramente, probabilmente, ti sarà venuto in mente qualcuno che ha fatto qualcosa per te o che sta svolgendo qualcosa nella Chiesa e hai sempre dato per scontato il suo lavoro, ma è importante imparare a dirci: bene, stai facendo bene, stai facendo un buon lavoro, e infondere una grazia, un'energia nella vita dell'altro che è straordinario. E più specifico sei, e più questo avrà effetto quello che dici. Sapete, Dio è l'unico che proprio in Lui coincide il fatto che è Padre e quindi ci ama, ma è anche colui che sa dare degli apprezzamenti sinceri, concreti. Quando Lui dice bene, è veramente bene. Non lo sta solo dicendo perché sei suo figlio, dice: vabbè, devo, è così, è nato così, devo fare, devo dirgli bene lo stesso. No, no, quando Lui ti dice bene, è realmente così. Quindi vorrei che potessimo alzarci in piedi, puoi muoverti anche un attimo nella sala senza problemi, però vorrei che andassi da qualcuno e gli dicessi: stai facendo bene. Noi siamo venuti qui per dirvi anche come Chiesa: Pastore Mirko, stai facendo un buon lavoro, stai facendo un buon lavoro, lo vediamo, vengo qua praticamente ogni mese e vediamo il percorso che state seguendo, e Pastore Pinucci ha fatto un ottimo lavoro, un buon lavoro, non solo per quello che hai fatto nel passato, ma per come stai aiutando in questo tempo. E Pastore Mirko, stai facendo bene, lo vediamo, ma te lo vogliamo proprio esprimere. Ora a chiesa non andate tutti da Pastore Mirko, se no non finiamo più l'incontro. Però prendete il piacere anche di verbalizzare, di dire a qualcuno, può essere tua moglie, tuo marito, e dirgli: stai facendo un buon lavoro a casa, forse non te lo dico mai, ma stai facendo bene e sono felice, Dio sta gioendo di quello che tu stai facendo, della pazienza che hai, dell'impegno che hai. Forse è qualcuno che sta servendo in questa chiesa, facciamolo. Voglio darvi qualche minuto, ci siete? Muoviamoci, andiamo da qualcuno e diciamoglielo: stai facendo bene, stai facendo bene, stai facendo bene. Alleluia. Voglio farvi vedere un'ultima immagine leggendovi questo versetto. Ebrei dice: consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Dobbiamo incitarci a buone opere, a fare qualcosa. Siamo stati creati per fare, realizzare, costruire, edificare, far fiorire, crescere, sviluppare, vivere, gioire, vincere, superare, innalzare, celebrare, rinvigorire, gioire. Alleluia. Voglio farvi vedere questa immagine perché mentre stavo preparando questo, riflettevo su queste cose e mi chiedevo: Signore, è realmente così? Sono sulla strada giusta? Ho trovato questo disegno che ha fatto mio figlio. Ha scritto solo questo: bene. Magari non l'ha scritto benissimo, però ha scritto bene. Ed ero nel mio ufficio e ho trovato sulla mia scrivania questo foglio. Sono entrato e ho trovato questo foglio, ho scritto bene, bene, bene, bene. bene in quello che stai costruendo. Dio è felice, gioioso e sta gioendo con te per quello che stai facendo. Vai avanti, non ti fermare. È bello costruire, è bello edificare, e se cadiamo ci rialziamo, se sbagliamo qualcosa la correggiamo, ma costruiamo, costruiamo, perché è bello sentire il nostro Signore che sta gioendo su di noi. Entriamo a far parte della relazione della Trinità, in questa bellezza, in questa completezza, salvati per realizzare le opere che Lui ha già preparato per noi. Amen. Alleluia, alziamo un attimo le nostre mani verso il cielo, lodiamo il nostro Dio e diciamolo: grazie Padre, noi non ci fermiamo, non torniamo indietro. Alleluia, noi ci dilettiamo nel fare le opere che hai preparato per noi, e siamo attenti alla tua presenza per sentire l'ispirazione, i desideri che metti dentro di noi, e poi stiamo attenti alle occasioni che metti davanti a noi. Non ci tiriamo indietro, ci incoraggiamo gli uni gli altri, ci ringraziamo gli uni gli altri, ci benediciamo gli uni gli altri, gioiamo gli uni negli altri. Alleluia, siamo felici a quello che ci hai chiamato singolarmente, a quello che ci stai chiamando come Chiesa, a quello che ci stai chiamando come Chiesa in Italia. Siamo pronti, siamo sensibili, siamo gioiosi. Alleluia, ce la vogliamo mettere tutta. Siamo salvati per grazia, ma noi ce la metteremo tutta in quello che ci darai da fare. Alleluia, ci metteremo ogni energia, ogni desiderio. Alleluia, ci metteremo ogni sforzo, ce la metteremo tutta. Padre, tu puoi contare su di noi, noi ce la metteremo tutta e faremo un buon lavoro. Alleluia.